50 domande su Gesù. Che cosa successe al Concilio di Nicea? Il Concilio di Nicea è il primo concilio ecumenico, cioè universale, in quanto parteciparono vescovi di tutte le regioni dove ci fossero cristiani. Ebbe luogo quando la Chiesa poté godere di una pace stabile e disponeva della libertà di riunirsi senza alcuna restrizione. Si svolse dal 20 maggio al 25 luglio dell'anno 325. Vi parteciparono alcuni vescovi che portavano nei loro corpi i segni delle recenti persecuzioni subite. L'imperatore Costantino, che ancora non era stato battezzato, facilitò la partecipazione dei vescovi, mettendo a loro disposizione i servizi delle poste imperiali perché facessero il viaggio e offrendo loro ospitalità a Nicea di Bitinia, vicino alla sua residenza di Nicomedia. Di fatto considerò molto opportuna questa riunione, giacché, dopo aver ottenuto con la sua vittoria contro Licinio nell'anno 324 la riunificazione dell'impero, desiderava anche vedere unita la Chiesa che in quei momenti era scossa dalla predicazione di Ario, un sacerdote che negava la vera divinità di Gesù Cristo. Dall'anno 318 Ario si era opposto al suo vescovo Alessandro di Alessandria e fu scomunicato in un sinodo di tutti i vescovi dell'Egitto. Ario fuggì e andò a Nicomedia presso il suo amico il vescovo Eusebio. Fra i padri conciliari si contavano le figure ecclesiastiche più rilevanti del momento. C'era Osio, vescovo di Cordova, che secondo quanto sembra presiedette le sessioni. Parteciparono anche Alessandro di Alessandria, aiutato dall'allora diacono Atanasio, Marcello di Ancira, Macario di Gerusalemme, Leonzio di Cesarea di Cappadocia, Eustachio di Antiochia ed altri presbiteri in rappresentanza del vescovo di Roma che non poté intervenire a causa della sua età avanzata. Non mancarono gli amici di Ario, come Eusebio di Cesarea, Eusebio di Nicomedia e alcuni altri. In totale, i vescovi che parteciparono furono circa 300. I sostenitori di Ario, che contavano anche sulle simpatie dell'imperatore Costantino, pensavano che dopo aver esposto i loro punti di vista, l'assemblea avrebbe dato loro ragione. Tuttavia, quando Eusebio di Nicomedia prese la parola per dire che Gesù Cristo non era che una creatura, sebbene molto eccelsa ed eminente, e che non era di natura divina, l'immensa maggioranza dei presenti comprese subito che questa dottrina contraddiceva la fede ricevuta dagli apostoli. Per evitare così gravi confusioni, i padri conciliari decisero di redigere, sulla base del credo battesimale della Chiesa di Cesarea, un simbolo della fede che riflettesse in modo sintetico e chiaro la confessione genuina della fede ricevuta e professata dai cristiani fin dalle origini. Si dice in esso che Gesù Cristo è della sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, homoousios tou patrou, consustanziale al Padre. Tutti i padri conciliari, eccetto due vescovi, ratificarono questo credo, detto simbolo niceno, il 19 giugno dell'anno 325. Oltre a questa questione fondamentale, a Nicea si fissò la celebrazione della Pasqua nella prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, seguendo la prassi abituale della Chiesa di Roma e molte altre cose. Furono anche trattate alcune questioni disciplinari di minore importanza, relative al funzionamento interno della Chiesa. Riguardo al tema più importante, la crisi ariana, poco tempo dopo Eusebio di Nicomedia, contando sull'aiuto di Costantino, ottenne di tornare alla sua sede. E lo stesso imperatore ordinò al vescovo di Costantinopoli che ammettesse Ario alla comunione. Frattanto, dopo la morte di Alessandro, Atanasio divenne vescovo di Alessandria. Fu una delle maggiori figure della Chiesa in tutto il secolo IV, che difese con grande altezza intellettuale la fede di Nicea, ma proprio per questo fu inviato in esilio dall'imperatore. Lo storico Eusebio da Cesarea, anche lui vicino alla tesi ariana, enfatizza nei suoi scritti l'influenza di Costantino nel concilio di Nicea. Se solo si disponesse di questa fonte, si potrebbe pensare che l'imperatore, oltre a pronunciare alcune parole di saluto all'inizio delle sessioni, si sia reso protagonista durante lo svolgimento del concilio al fine di avvicinare gli avversari e metterli d'accordo, imponendosi anche nelle questioni dottrinali al di sopra dei vescovi che vi parteciparono. Si tratta di una versione completamente lontana dalla realtà. Seguendo tutte le fonti disponibili, si può dire certamente che Costantino propiziò la celebrazione del Concilio di Nicea e influì nella parte organizzativa della sua celebrazione, prestando tutto il suo appoggio. Tuttavia, lo studio dei documenti mostra che l'imperatore non influì invece sulle decisioni conciliari, ivi compresa la formulazione del credo, anche perché non aveva una preparazione teologica per dominare le questioni che lì si dibattevano.